infatti lei va a fare la spesa dove ritiene più opportuno di farla. Noi stiamo ponendo un altro problema, che è quello di non desertificare i centri urbani, perché senza le attività commerciali, senza l'artigianato, eccetera, i centri urbani muoiono, insomma, ecco, diventano dei dormitori. Questo dobbiamo evitarlo in tutti i modi. Non a caso noi abbiamo lanciato qualche anno fa, proprio con un progetto anche finanziato dall'Unione Europea, una serie di centri commerciali naturali che hanno preso piede in Italia, cioè quella diffusione di zone commerciali, di piazze, di vie che sono diventati come dei centri commerciali a cielo aperto, e quindi questo dà un senso anche, cioè il problema non, c'è il problema della spesa, tenga conto che il settore alimentare ormai elevato lo specializzato, elevato gli ambulanti dell'ortofrutto ormai è già sparito, quindi già non si pone più il problema che diceva lei, ci sono pochi negozi specializzati che offrono un servizio migliore e quindi lei va da quelli perché le offrono delle cose, diciamo, migliori, però c'è da salvare questa vita sociale all'interno dei centri urbani che garantiscono esattamente i negozi, non certo i centri commerciali che stanno magari a 10 km